In questo mondo senza Dio, io non so quali altre cazzate verranno sfacciate per verità qui. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Da pubblico ministero fossi o Mago Merlino, o Silvan, o Gianni Pico della Mirandola, che magari tra i vari fascicoli teneva in un determinato fascicolo un'utenza, io dovevo sapere che quell'utenza di un altro fascicolo dovevo sapere. Cioè, guardate, veramente, parliamo di una cosa che dovrebbe essere seria. Come lotta Gigino sospeso! Gigino sospeso, io continuo a dire che fa bene, secondo me fa bene, De Magistris fa bene, tra 4 mesi è tutto per scritto e lui rimane sindaco, adesso è sindaco sospeso e poi diventerà sindaco normale, tornerà sindaco normale, ha detto adesso sospeso e poi normale. Va bene, le 6:29 minuti, quante belle notizie oggi i giornali, sono quei giorni in cui leggo i giornali e dico, oh, ma va delle notizie clamorose. In Corea del Nord Kim Jong-un è scomparso, si comincia a parlare di leader deposto, deposto. Ah, mi affascina tantissimo il mistero della Corea del Nord. Poi, ma ci sono delle notizie, sentite questa. In Vaticano c'è lo sconto per i cardinali per comprare le sigarette. Repubblica dice, qualcuno ha mai visto un cardinale fumare? No, in pubblico no. Ma perché allora hanno gli sconti? Cosa ci fanno con tutte ste stecche di bionde in Vaticano, i cardinali? C'hanno lo sconto. Sentite quest'altra. Il sindaco di Sulmona, a cui uno studente della Bocconi ha affibbiato il termine brutta testa di cazzo perché aveva detto delle cose considerate omofobe, non è reato, il giudice assolve, è un insulto che si può dare così, quindi se incrociate il sindaco di Sulmona, no vabbè, insomma, fate mobis, poi però c'è una sentenza. Vabbè, sono le 6:30 minuti. Queste sono le notizie che mi hanno colpito di più, No, poi è successo che cosa? È successo che nella notte è arrivato il via libera, la fiducia al Jobs Act alla Camera, in quanti hanno votato 165 sì al Senato, 111 no, 2 astenuti. Un senatore del PD, Walter Tocci, che dice mi dimetto dal Senato, risse, spintoni, urla, ma questo ieri dopo l'apertura del Parlamento. Possiamo parlare di quello che è successo in Parlamento. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Allora, intanto saluto il ritorno di Silvia Brasca della 7, del TG. Ciao. Della 7. Ciao, come ciao stai? A tutti. Io molto bene. Molto bene. Meglio di Kim Jong-un. Meglio di Kim Jong-un. Non ho la gotta. Ma la gotta, dai, è una leggenda. Ma, no. Ma figurati se per la gotta è scomparso per un mese e mezzo. Dai, da un mese e mezzo non si sa niente. Saluto il direttore di Affari Italiani, affariitaliani.it, Angelo Perrino. Buongiorno, direttore. Eccomi, buongiorno a voi. Ben ritrovato, eccoci qua. Che scrive, che fa Forattini sulla gotta di Kim Jong-un? Niente, no? Può essere un'idea, gliene parlo dopo e vediamo di tirar fuori una delle sue sbianchettature, come le chiamo. Lì in Corea del Nord sbianchetterebbero, Esatto. Lì sbianchetterebbero di brutto, non è che... Sì. Sì. E anche in Italia forse qualche sbianchettata ci può stare, per esempio su questo Job Act che accontenta tutti e non contiene poi i punti che interessava portare a casa. Eccola là, la prima zampata sul Jobs Act. Io sono quelle sedute che mi gusto e mi vedo ogni tanto. È bello vedere quello che succede alla Camera e al Senato, dai, diciamolo francamente. E ieri è una di quelle giornate al Senato, Lo Steve Jobs Act. Lo Steve Jobs Act. Sì, ieri al Senato è successo di tutto. Qualcosa possiamo sentire, cominciamo a sentire qualcosa. Dai. Allora, per favore. Allora, possiamo continuare. Allora, per favore assistenti, ordino l'espulsione dall'aula del capogruppo Petrocelli. Vabbè, l'espulsione. Cara Silvia Brasca, un'espulsione non si nega a nessuno. Petrocelli sarà ai nostri microfoni alle 8.45, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ma questa è... Però la guerra è stata proprio brava. La guerra, Cecilia Guerra, che perché è stata brava? Insomma, è stata, secondo me, non era un momento facile e lei è andata avanti. Insomma. Andata avanti. L'ho molto apprezzata per quello che potevo vedere dalla televisione. Insomma, sì, ma ho capito, ma tu hai visto la guerra, ma qua sul Corriere hanno visto sputi, penne, pennarelli, bestemmie, iPad. Chi è che lancia un iPad? Ma che chiama? Ma tanto glielo regalano. Ah, beh, certo, perché... infatti uno che lancia un iPad. Berlusconi regalava gli iPad, ti danno via Natale così. Un iPad pare che sia volato, sì, a un certo punto ha sfiorato il naso del presidente Grasso. Ma come è possibile? Tanto è pagato da noi, tanto dopo vai da, dici mi si è rotto l'iPad, mi è caduto e te lo ridanno nuovo. L'autore, l'onorevole che ha lanciato l'iPad, ha poi precisato e rassicurato: una buona mira, sapevo di non colpirlo. Sì, no, ma quello era anche il regolamento, forse era un po', cioè, il leghista Gianmarco Centinaia ha lanciato il regolamento, ecco. Libri, a un certo punto è volato anche un pugno, passa la senatrice Fattorini del PD e dice: la De Petris voleva dare un pugno al senatore Kocancic che l'ha schivato, ma me lo sono preso io e sto andando in infermeria, ragazzi. Anche i nomi di questi onorevoli congiurano contro di loro. Uno che si chiama Centinaio come può sopravvivere a questi momenti confusi? Effettivamente, ragazzi. Vabbè, è successo così. Primo round ieri al Senato, proprio round vero e proprio, perché sentite per esempio che ha detto, vabbè, l'espulsione di Grasso l'abbiamo sentito, di Petrocelli, sentite Renzi come ha definito tutto questo. Ha definito, Renzi era con la Merkel a Milano, tranquillo, sceneggiate. Del Jobs Act stanno parlando al Senato, parlando, si fa per dire, visto che le reazioni di una parte delle opposizioni fanno parte più delle sceneggiate che non della politica. Ecco, direttore, Silvia, chi è che vuol dire? Perché parliamo dei contenuti, cioè il Jobs Act poi è una delega e questa ha fatto infuriare molti. Cioè, una legge delega contiene delle cornici entro le quali poi il governo dovrà mettere la ciccia, diciamo così, no? È questo, direttore Perrino, che ha fatto infuriare molti e che ha fatto dubitare anche te, diciamo, su... Messo all'italiana, come sempre, hanno svuotato appunto di contenuti questo passaggio, verrà tra qualche mese, come sempre, verrà delegato ai decreti attuativi. Sappiamo tutti che in Italia i decreti attuativi sono come l'arca fenice, cioè qualcosa che potrà accadere chissà quando. Stiamo ancora aspettando i decreti attuativi di 400 provvedimenti del governo Monti. Infatti questo è il dubbio che mi è venuto, ma non voglio dire, questi decreti attuativi li faranno. Cioè non è che possiamo, dopo tutto sto casino, aspettare decreti attuativi 7 mesi, che ne so. Sì, però poi vanno calendarizzati, si devono confrontare con i lavori che sono molto complessi, dunque è un ottimo alibi per chi vuole allungare. Ma nel frattempo possiamo dire in sede europea che abbiamo fatto la riforma del lavoro. Così è, se ti pare, molto pirandelliano. Molto pirandelliano. Silvia Brasca, tu che ne pensi? Come... Inizia a contare le settimane. Inizia a contare le settimane decisive, no? Ma no, dai, non potranno avere fatto uno scherzo su questa cosa del Jobs Act, no? Ma ti ricordi le province, l'abolizione? Io qua appunto, direttore, conto le settimane decisive, siamo alla 75esima per l'abolizione delle province. Sono tutte lì le province. Tutte vive. Podestà qui a Milano è ancora lì che fa il presidente. Lottano. È un'altra roba che non si chiama più provincia. Lottano e poi si lamentano della resistenza di De Magistris. Ma insomma, Silvia, tu che dici allora? Com'è? No, guarda, io dico che la giornata di ieri era davvero lunare, perché ci si aspettava a Milano i disordini per strada. Per strada c'è stato poco e niente, 3 petardi, mentre davvero è stato, le scene sono state al Senato. E poi io ho trovato, così, mentre si parlava del Jobs Act, l'Europa, Landini che vuole rioccupare le fabbriche, sì, che ha un potere evocativo così forte, sì, ma così quali fabbriche? Ma quali? Non... Che le trova chiuse! Le trova chiuse le fabbriche! Quali fabbriche? Sì. Io mi ha fatto tenerezza, perché per carità, se uno pensa davvero al biennio europeo, va sui libri di storia a cercare le fabbriche occupate, che sì, poi non è vero, che poi le piccole sono ancora, ci sono i presidi, non voglio buttare... Certo, vai a occupare una PM, un'impresa di 10 dipendenti, ma ti tirano, dice, ma qua dobbiamo lavorare, dobbiamo produrre, che se riusciamo a produrre qualcosa riusciamo ancora a sopravvivere, a occupare una fabbrica di 10 dipendenti. Vabbè, dimmi. E poi? No, ma stai delle, e poi sti tirano gli iPad, cioè chi sta là? Sti decreti attuativi arriveranno, vi prego, ditemi che arriveranno per capire che cosa contiene questa riforma. In compenso lì, al livello sindacale c'è una grande novità, una donna leader della CISL, anche lì sì, le quote rosa, anche il sindacato si muove. Beh, insomma, questa è una buona cosa. Silvia, sarai contenta, no? No, gliene frega niente, ma dai, le quote rosa, che sia una donna, non lo so, no, non mi interessa, basta che anche lì si muovano, ma basta che anche lì anche il sindacato capisca che capisca che si debba fare. Vabbè, ma comunque vediamo, c'è sempre, quando ci sono le risse, i lanci di iPad, di regolamenti, sputi, bestemmie, urla, pugni schivati e presi, poi alla fine c'è sempre il momento in cui solenne della votazione. E ma così posso dirti quello che, cioè, sembra che tutta lo psicodramma di ieri consistesse nel fatto che si voleva non consegnare a Renzi, ma certo, la chiusura del voto con la Merkel, prima della conferenza stampa con la Merkel. E ce l'hanno fatta. Sì. Quindi siamo riusciti a farci del male, lo psicodramma era tutto legato a questo, e infatti pare che Renzi ce l'abbia a morte con il presidente Grasso, che secondo lui ha tirato un po' per le lunghe. Sì, Renzi pare che dica i suoi, ho letto su Repubblica, quelli del PD che mi contestano, è tutta pubblicità progresso per il governo, però effettivamente lui voleva dire proprio in faccia alla Merkel, eccolo qui, vedi, 5 minuti fa approvato il Jobs Act al Senato, invece ecco tutta questa manfrina per impedirgli di dirlo alla Merkel, ma alla fine credo all'1:30 di questa notte è arrivato il voto. Senatori presenti 279, senatori votanti 278, maggioranza 140, senatori favorevoli 165, senatori contrari 111, senatori astenuti 2, il Senato approva. Approva, vabbè, e qua Silvia, devo dire quasi silenzio, non so, dormivano dopo una giornata, cioè di solito c'ho le urla, i fischi, ma hanno desistito, no, hanno detto no, vabbè, dai, approva all'1:30 di notte, gliela abbiamo fatta a trascinare fino a quest'ora, ma mo basta. Sì. Però comunque io penso che la Merkel non sia stupida, e quindi, cioè, non, forse siamo noi che ci illudiamo di poter dare notizie alla Merkel, ma la Merkel mica è scema, cioè, sa. Ha buoni collaboratori che la sanno informare. No, voglio dire, pare che abbia approvato almeno a dire il Jobs Act è una buona riforma, è una strada buona imboccata da parte dell'Italia. Anche, sì, l'ex della BCE, Trichet, ve lo ricordate quello che ci ha spedito la lettera, Perrino? Sì, quello... cattivissimo. Sì. Cattivissimo. Oggi fa un'intervista a Repubblica e dice, beh, bene, insomma, vi state occhio, perché il 2011 non è molto lontano, quando gli investitori pensavano che l'Italia fosse sull'orlo del fallimento, quindi non pensate di essere sopravvissuti e lontani, però... avete imboccato una buona strada e avanti così. Abbiamo anche Trichet, avanti così. Sì, è la retorica di questi soloni europei di cui riempiamo le pagine dei giornali, che non contano niente, però gli diamo il microfono come se fossero l'oracolo di Delfi, e poi sappiamo che l'Europa non esiste, vedi la questione di ISIS messi in Turchia, stanno arrivando, zona NATO quella, ma zitti, gli europei non esistono. Zitti. Vabbè, che dobbiamo... Allora, qua ci sono tante altre cose, perché insomma non è che solo questo Jobs Act. Per esempio, che ha fatto Beppe Grillo, che pare che stia licenziando... No, Casaleggio, pare che stia licenziando tutti... tutti del Movimento 5 Stelle, dello staff di comunicazione, no? Tutti i giornali raccontano questa cosa. Via Messora, che era il capo della comunicazione, via tutti quelli. Ma che succede nel Movimento 5 Stelle? Perrino, tu che pensi del movimento? Ma ti ricordi l'analisi di Alberoni, movimento e istituzione? Io l'ho studiata tanti anni fa all'università. C'è lo stato nascente al momento della nascita del movimento, dove è tutto bello, tutti appassionati, tutti, e poi il movimento diventa istituzione e nascono i problemi. Sta accadendo questo, stanno perdendo un po' di pezzi, perché l'istituzione logora e complica le cose. Qualcuno l'aveva detto, guardate che succederà così. Tu, Silvia, non so, li osservi. Penso, la sua strada ha trovato anche Renzi, insomma, cioè uno nel senso che quello che era dirompente dei 5 Stelle ha trovato un osso duro anche come comunicazione in Renzi, e loro si stanno... secondo me bisogna sempre guardare Pizzarotti, che è il primo che ha dovuto mettere le mani in pasta su una situazione di un governo difficile con Parma, che è molto simile, era molto simile all'Italia, e devi governare, cioè se l'inceneritore va avanti, alla fine o lo butti giù o devi iniziare a usarlo, poi vedrai, è così, vediamo. Intanto c'è questa kermesse al Circo Massimo, è uscito finalmente il brano di Fedez. Cosa ridi? Perché? Tu ci vai? No, io non ci vado. Ma sai chi è Fedez? No, non ci vado. Sai chi è Fedez? Fedez è quello di X Factor, tra l'altro. Rapper. Adesso è quello di X Factor. Ma rapper, ma certo, sì. Giovanardi, quello che ha litigato con Giovanardi. Fedez, il rapper. Eccolo qui il rap di Fedez, fatto per la kermesse del... Ma poi sarà scelto, perché all'inizio aveva detto, no, ma Beppe Grillo ha detto che gli faceva schifo. Questa, ha usato un'altra espressione. Però questa è la sua canzone, ciecamente, repubblica non vedente, non si spiega, in pratica è la repubblica cieca, milioni di elettori addormentati per vent'anni davanti ai televisori, buonanotte senatori, caro Napolitano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passa il testimone, dove sono i nastri dell'inchiesta, si dice che allora, la mancino, scriva meglio succede questo, voi non eravate certamente all'ascolto qualche giorno fa, quando io, è uscito solo il testo, uscì solo il testo senza la musica sui giornali, e io, cara Silvia Brasca, caro direttore Perrino, ho deciso in rassegna stampa di, insomma, di leggere questo testo, e qualche cretino qua me l'ha messo in musica, vabbè, insomma, ecco. Vabbè, ascoltate. Caro Napolitano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Inchiesta. Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Vabbè, io non lo so. L'ha ribattuta su destra. È ribattuta, me l'hanno remixata. Non è che sono deficiente. Vabbè. E comunque, ecco... potete dare un giudizio musicale, cioè Olix Factor, Perrino? Ma sì, non mi sembra un capolavoro, non passerà alla storia. No. Io avrei proposto magari di affidare a Beppe Grillo e alla figliola, che ieri, facendo zapping, ieri sera ho apprezzato in una intervista alle Iene. Ah sì, Luna Grillo, l'ho vista anch'io, ecco, sulla Luna. Iene. Sì, approfittando del fatto che ieri sera non c'erano talk show, allora ho sentito un po' le Iene. Meno male, meno male. E la figlia di Grillo, devo dire, è sorprendente la ragazza. Molto invece, ma io, Silvia Brasca, All X Factor... Ma sì, anche quando leggi Celentano si vede. Insomma, ti ringrazio per l'affetto. Andiamo al traffico, che è meglio. 24 mattino. Volevo tranquillizzare la segreteria del Partito Democratico riguardo al calo che hanno avuto nei tesserati. Non si devono preoccupare, basta che si levino di torno D'Alema, Bersani e la loro cricca, vedrà che le tessere riprenderanno a crescere alla grande, senza problemi. sono sconvolta. Ho sentito quei due gay che hanno intervistato, dice siamo marito e marito. Ma dico io, nella fisica i poli positivo e negativo si attraggono, se sono due positivi o due negativi si respingono. Milan, tutti parlano di riforme della Costituzione, la Costituzione va riformata, te lo dico io come va riformata. Prime due righe, l'Italia è un'anarchia costituzionale fondata sul chi se ne frega. Abbi il coraggio di dirlo. Io capisco tutto, anche che ci sono gli omosessuali, ma non riesco a capire come mai la vostra radio tutti i giorni, a tutte le ore, parla di questo problema. Il problema per me non è. Caro Mina, ma tu tutte le mattine dici che vuoi Rossella Brescia, Rossella Brescia. Perché non vado il cambio? Tu una settimana te ne vai dall'altra parte, Rossella Brescia viene a solo 24 ore. Così abbiamo un buongiorno con una voce molto più gradevole della tua. E vabbè, sì, noi continuiamo questa campagna Free Rossella Brescia. Vorrei una volta qui al Parlamento Rossella Brescia, ma RDS non ce la sganciano, questa è la verità. Tu, Silvia Brasca, puoi unirti in coro a questa campagna che stiamo facendo? Va bene, facciamo la firma. Facciamo. Va bene. Vabbè, con i 60 per Renzi di oggi sul Corriere. Con un entusiasmo, vabbè. Oh, se proprio c'è da firmare, vabbè. No, ma non ti chiediamo la firma, così è solo. Vabbè. Allora, anche Conchita Wurst, direttore, sai chi è Conchita Wurst? Sì, è la trans, quella con la barba. Esatto, è un editoriale sintetico, la trans con la barba, così tutti capiscono. Anche Conchita Wurst dice: sono sbalordita da quello che ha detto Alfano. Ma come se ne esce da sta roba qua? Anche in segreteria hai sentito molti che parlano i matrimoni omosessuali, sì, no, ma Alfano che ha fatto? Ieri il sindaco di Bologna ai nostri microfoni ha detto e il prefetto cancella i matrimoni, e li cancelli, io così torniamo all'Ottocento, no? I prefetti tolgono il potere ai sindaci. Direttore, che succede di questa cosa che... E anche qui, ahimè, siamo al così è se vi pare, cioè Alfano sarà impopolare quello che dico, però si è rifatta una legge e non è previsto in Italia tutto ciò, quindi o cambiamo la legge e quindi i prefetti e giù per i rami possono adeguarsi e registrare questi matrimoni, oppure al momento il ministro dell'interno ha il diritto e il dovere di dire che queste iscrizioni non sono formalmente ineccepibili. Anche se sono iscrizioni, cioè non è un po' lì combattuta la vicenda, cioè non è che sono iscrizioni che certificano che si possono sposare in Italia due persone dello stesso sesso. Il sindaco di Bologna ha detto è un modo per accertare che un matrimonio all'estero è stato, laddove si può fare, è stato contratto, anche per evitare la bigamia, per esempio, no? Che uno, sì, certo. Che uno si sposi poi con una donna, per esempio. Io penso che in Parlamento potrebbero decidere di affrontare questi temi e dire definitivamente come vogliamo procedere. Invece sono quei temi che vengono rimossi e poi ci troviamo con queste contraddizioni che finiscono, come fu il caso di Eluana per una cosa analoga, poi sulle spalle dell'ultimo funzionario che entra in crisi di coscienza. Questo sì, la inazione del Parlamento è vergognosa, che facciano qualcosa in un senso o nell'altro. Ma tu sai che su questi temi NCD, cioè Alfano e PD, sono divisi tantissimo, e quindi questi temi non si possono affrontare. Andiamo avanti come sempre pirandellianamente, senza fare nulla. Cara Silvia, Alfano poteva, cioè Conchita Wurst non conosceva Alfano, se no non si sarebbe meravigliato, doveva star zitto secondo me. Chi? Tenere lì, no, Alfano. Fai in modo che il Parlamento prima o poi faccia qualcosa, ma non l'ho capita, perché poi lascia i sindaci. Perché alla fine poi Mero la ragione. Cioè. Ha ragione, insomma lì poi ognuno la pensa come vuole, c'è chi dice le leggi ci sono e quindi non si possono avere matrimoni tra due persone dello stesso sesso e quindi si cancella. Infatti sentite Alfano, dice non c'è altra soluzione che annullare tutto, ribadisce. E noi abbiamo fatto una direttiva e quindi andiamo avanti sul contenuto della direttiva. Saranno annullati gli atti di trascrizione che saranno effettuati in modo non corrispondente alla legge italiana. Non ho altra soluzione. non ho altra soluzione. E poi, e poi vabbè, su questa vicenda la si può prendere come la prende uno sempre pacato, moderato, molto sereno nell'affrontare queste cose. L'eurodeputato oggi, buon anno, buon anno, cara Silvia Brasca, uno che le cose le dice sempre in tono sfumato. Io faccio quello che mi pare, capito? E io faccio quello che voglio, io e le dico di piantarla, perché non me ne frego più, sento che mi dice lei, capito? Se sei un frocio sono problemi tuoi. Questo ha affrontato, credo, un omosessuale che gli rimproverava il fatto che lui ha sempre dei toni un po' bruschi. Si presentò in aula, ricordate, con un finocchio tra le varie cose. Alessandro, io vorrei precisare, non ho nulla contro le unioni gay. Ma no, è chiaro. Alfano è il capo di un'amministrazione, sotto di lui ci sono i questori e i prefetti, e dunque questi burocrati, piaccia o no, devono applicare le leggi, non possono interpretarle a seconda del proprio gusto e delle proprie convinzioni. È opportuno che un ministro dica la sua opinione. Poi i matrimoni gay, magari oramai i gay sono rimasti gli unici a credere nel matrimonio, quindi viva Dio. Esatto, almeno rinforziamo questo sì, istituto un po' in crisi. Tu hai capito in tutta questa mezz'ora, Silvia, per concludere, perché i cardinali hanno lo sconto sulle sigarette? Che ci faranno? Guarda che io oggi non ci penserò, non penserò ad altro, Allora, le distribuiscono per fare opere di bene, no? quando incontrano qualcuno, tieni una sigaretta, che tanto io ma per le tre sigarette che danno via nei posti di carità e le danno i cardinali, dai, pensiamo che sia, vengono distribuite, non lo so, dai. Io, guarda, mi attaglierà questo dubbio per tutta la giornata finché qualcuno non me lo toglie. Perché i cardinali hanno lo sconto sulle sigarette? Che dobbiamo fare? Niente, ci dobbiamo salutare. Ringrazio Silvia Brasca del TG della 7, Angelo Perrino. Buona giornata a tutti. Di affariitaliani.it, vi lascio con questo. Caro napoletano, te lo dico con il cuore, o vai a testimoniare oppure passa il testimone. Dove sono i nastri dell'inchiesta? Inchiesta. Si dice che Nicola Mancino scriva meglio con la destra. Destra. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora sono le 7:17 minuti, siamo qui noi e voi debosciati d'Italia. Che state facendo nelle vostre lungherrime colazioni interminabili, dai, che bisogna produrre, e portare i bambini a scuola, fare le vostre commissioni. Forza, lo schema Allegri è quello solito, dai. Allora, noi parleremo di che cosa? Beh, parleremo sicuramente anche di quello che è successo al Senato. Avremo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Petro Celli, colui che è stato espulso ieri nella rissa da saloon che si è consumata al Senato. E poi parleremo della vicenda Ebola. Avete sentito, è morto il paziente zero negli Stati Uniti. C'è un caso in Spagna, invece l'infermiera sta meglio, ma ci sono altre persone sotto controllo, e ovviamente, come succede in questi casi, aumenta la paura. Cercheremo di spiegare di cosa si tratta, quali sono i timori e quali sono le precauzioni per arginare, almeno in Europa e nel mondo, Ebola, che invece sta mietendo molte vittime in vari paesi dell'Africa. Ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali.

forse un golpe, forse un golpe. Dopodiché, cari maschietti, care femminucce, cari italiani, forse è stato svelato uno dei misteri più misteriosi del mondo. Libero lo mette in prima pagina con articolo di Selvaggia Lucarelli. Il punto G non esiste. Sono le 7:54 minuti di giovedì 9 ottobre 2014 e mi preme dare questa comunicazione ufficiale. Lo hanno detto, secondo Selvaggia Lucarelli, due sessuologi, Vincenzo e Giulia Puppo, che con questo cognome farebbero passare ogni fantasia pure a 30 lance, che chi non lo sapesse è un attore porno, hanno chiuso il caso dopo lungo e documentato lavoro di ricerca. In pratica, afferma di due, il punto G non sarebbe che la parte terminale interna del clitoride, quindi più ampia e più può essere stimolata durante l'atto. Ma il punto G in sé non esiste. I rottamatori del punto G. E vabbè, su Libero. Ma vince il premio La Carta Costa oggi Enrica Roddolo sul Corriere, mezza pagina per il dilemma Monte Carlo. La principessa Charlène aspetta due gemelli. Ma chi se ne frega? Mattino. Sono le 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vi preannuncio che parleremo certamente anche di quella che è stata l'approvazione del Jobs Act al Senato. Alle 8:45 avremo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, colui che è stato espulso, Vito Petrocelli. Prima però vogliamo parlare di Ebola. E allora, quando si parla di questo argomento, ovviamente il rischio, quello da non correre, quello di spargere inutili allarmismi o terrore. Non deve essere così, ma è giusto parlarne, perché di questa epidemia che in Africa ha causato già 3.500 morti, moltissimi contagiati, è arrivata anche in Occidente. Avete sentito, negli Stati Uniti è morto il paziente zero cosiddetto, vale a dire Thomas Duncan, e tra l'altro notizia di questa notte, anche un vice sceriffo che è entrato in contatto con lui ha mostrato i primi sintomi dell'Ebola. In Spagna sta meglio invece l'infermiera che si è presa cura di un missionario che era tornato dalla Sierra Leone contagiato. L'infermiera forse ha compiuto un gesto sbagliato, cioè con un guanto si è toccata, si è strofinata vicino l'occhio. Però ora sta meglio. Insomma, parliamo di Ebola e ci chiediamo tutti, parlando di questo, in Italia siamo tranquilli, siamo pronti ad affrontare eventuali casi che possono arrivare? Se volete porre anche qualche domanda, 800 24 00 24, abbiamo comunque persone che possono rispondere a voi, a cominciare da Roberto Bertollini dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presso l'Unione Europea. Buongiorno Bertollini, ben trovato. Buongiorno a lei. Allora, intanto la domanda che le faccio è questa: ci può spiegare ai nostri ascoltatori in maniera semplice, sintetica, cos'è Ebola e come si trasmette? Ma Ebola è un virus che si trasmette attraverso il contatto con i liquidi biologici. Quando parliamo di liquidi biologici parliamo di sangue, di vomito, di urina, di feci, eccetera. Quindi si trasmette soltanto entrando in contatto con questi liquidi, quindi è una malattia la cui trasmissione non è così semplice come per esempio un'influenza o un raffreddore. Quindi diciamo questa caratteristica. Quindi non per via aerea, anche il sudore, però basta, no? Il sudore, ecco, esatto, anche il sudore, però mi faccia dire un'altra cosa: si tratta quindi di una malattia diciamo virale con manifestazioni cliniche che sono per certi aspetti simili diciamo un po' all'influenza, che poi si accompagna anche a delle forme di carattere emorragico. Quindi il problema è anche un'altra cosa da dire, è anche questa, che la trasmissione della malattia è più facile quando la malattia è avanzata, quindi dopo qualche giorno da quando si è manifestata. All'inizio, nei primi sintomi, la eliminazione del virus è più scarsa, quindi diciamo ci si può contagiare ma in maniera meno facile. E in aggiunta non ci si contagia nel periodo di incubazione, questo è molto importante. Quindi sì, quando una persona è entrata in contatto con la malattia ma però non ha ancora sintomi clinici, questa persona non è contagiosa, e questo è importante. Senta, la domanda che si pongono tutti è: in Italia siamo pronti ad affrontare un'eventuale emergenza, un eventuale caso? Guardi, in Italia ci sono degli ottimi protocolli che applicano, tra l'altro, i protocolli internazionali che sono diciamo, noti e ben sperimentati anche in esercizi che vengono fatti ogni tanto rispetto a queste problematiche. Ci sono due grossi ospedali di riferimento, il Sacco di Milano e lo Spallanzani di Roma. Peraltro lo Spallanzani è anche un laboratorio ad altissima sicurezza, ce ne sono soltanto 8 in Europa e uno sta appunto allo Spallanzani. E direi che da questo punto di vista la situazione è abbastanza tranquillizzante, insomma. Poi è evidente che il problema dipende anche molto da quanti possono essere i casi, da quante sono le necessità che ci oggi per esempio il Messaggero titola, ma forse è un caso di un falso allarme, ore d'ansia per un ortopedico portato a Roma dalla Sierra Leone. Si parla di questo medico che da 5 giorni è in isolamento allo Spallanzani, però non ha sintomi fino a questo momento. Insomma, in questo momento casi accertati in Italia sono 0, questo lo vogliamo sì, sono 0, ci sono stati diversi casi, diversi rumors, diciamo così, tutti quanti dimostrati negativi, il quale la qualcosa in qualche modo dimostra anche l'attenzione del sistema. Mi dica però questo, perché proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivato questo, come dire, non allarme, ma dato di fatto, e cioè, e vorrei che lei ce lo confermasse o smentisse, sono inevitabili dei casi anche in Italia. Ma guardi, in realtà non abbiamo detto dei casi anche in Italia, abbiamo detto dei casi in Europa. In Europa. In Spagna si sta verificando, cioè ci possono essere degli errori umani legati alle procedure di sicurezza che sono applicate in questi casi, ci possono essere delle persone che arrivano con un volo via, non so, Bruxelles o via Marocco, che è un'altra possibile via d'entrata, che potrebbero determinare diciamo un caso che si manifesta nel corso dei giorni successivi. Quindi questo è possibile e si è già verificato. Attualmente ci sono 7-8 casi, diciamo, ospitalizzati in Europa. In Europa e nel mondo, anche negli Stati Uniti, con questo tipo di manifestazioni. Quindi anche in Italia potrà succedere anche in Italia, questo è bene che si dica. Ovviamente molti già ci chiedono, e tra poco magari torneremo su questo tema, la storia, chi ci chiede da dove proviene questo virus, chi ci chiede il tema del, come Silvia da Pisa, il vaccino. Lo vediamo tra poco. Prima però, Bertolini, vorrei presentarle Lucia Della Bartola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno e grazie per avermi chiamata. Grazie a lei. Lucia Della Bartola ha fondato insieme al marito, giusto? È il mio compagno, però non ho ancora marito. No, ma mi perdoni, non sapevo se era già sposata o se era sposata. Non basta un sorriso Onlus, che opera in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, paese dal quale siete tornati da poco? Da 21 giorni oggi. Da 21 giorni. Ecco, lei ha denunciato, ha reso pubblico il fatto che siete tornati da una zona, un paese, non proprio la zona dove eravate voi, ma un paese nel quale Ebola c'è, ha mietuto anche delle vittime, eppure non ci sono stati alcun tipo di controlli quando siete sbarcati in Italia. È così. Non in Italia, il problema, le dico, è a Parigi. Perché noi, sì, è l'aeroporto di snodo, perché noi siamo partiti da Kinshasa, siamo arrivati a Parigi e da lì abbiamo preso un volo per l'area Schengen, quindi il problema non è in Italia, dovevano controllarci a Parigi. Questo è il problema dei controlli, ovviamente, perché voli diretti dall'Italia credo ci siano solo con la Nigeria, forse ci sono da Fiumicino, ma con il Congo no, effettivamente. No, non è collegato. Senta, ma voi non siete stati controllati neanche a Kinshasa? No. Noi personalmente no, avevo un'altra volontaria che è partita una settimana prima di noi e gli hanno fatto il controllo della febbre, a lei sì. A lei sì, quindi fanno dei controlli a campione. A Parigi invece proprio niente. Niente, infatti noi ci aspettavamo, minimo le dico, perché poi uno si fa le fantasie, esami del sangue, quarantene, perché alla fine venivamo da un paese dove l'Ebola, seppur in una regione chiusa, che è stata dove sono state chiuse le frontiere, c'è. Ci sono stati dei morti e invece niente, neanche la febbre, ci hanno solamente controllato i passaporti. Solo i passaporti, ovviamente sì. Non serve a niente per l'Ebola. Senta, ma lì in Congo come viene vissuta questa emergenza? Ma le dico, per quanto riguarda io le parlo anche della mia esperienza, perché alla fine eravamo in Congo anche 2 anni fa e l'Ebola c'era. Senza meno clamore, cioè era una cosa molto più soft, perché lì c'è un focolaio purtroppo che ogni tanto si riaccende ed è in una regione specifica che si chiama Equateur. Viene vissuto, hanno paura chiaramente, però non c'è tutto l'allarmismo che c'è qua. perché alla fine sono abituati, forse poi sono, anche esatto, un po' diverso, ha sono, capito, sono, diverso. Sono certamente abituati a gestire cose che noi, come tutte le cose che non si conoscono, fanno più paura. Ma sai, essendo l'Ebola un virus che è nato direttamente in Congo, sicuramente sanno fronteggiarlo meglio rispetto a noi, hanno un'organizzazione che è diversa. Infatti, avendo chiuso subito la regione, io so, avendo informazioni da giù, che non ci sono più casi da 2 settimane all'incirca. Allora, però lei pone una problematica che lo stesso ministro Lorenzin in un paio di interviste ha posto nei giorni scorsi. Dottor Bertolini, la questione dei controlli negli aerei. Tra l'altro è chiaro che non è facile mappare, per esempio, il paziente zero che è morto negli Stati Uniti è partito dalla Liberia, è arrivato a Bruxelles, da Bruxelles è andato a New York, da New York è andato a Dallas. Però come si fa? È possibile non controllare una persona che parta dal Congo? Guardi, dal Congo la situazione è diversa perché, come ha detto giustamente la collega, si tratta di una regione molto limitata e un'epidemia peraltro diversa da quella che c'è nell'Africa occidentale. Diciamo che nei paesi affetti attualmente in Africa occidentale c'è uno screening di tutti coloro che partono da quegli aeroporti per la presenza di febbre. Quelli che sono hanno si constata la presenza di febbre vengono isolati e allontanati. Quindi questo è il primo punto. Il problema è se uno i sintomi non li ha nel momento in cui parte. Il problema è quindi bisogna pensare che se una persona prende l'aereo e va a Bruxelles, per esempio, che è una delle località dove io peraltro mi trovo, che è il punto d'arrivo di alcuni aerei che vengono dall'Africa occidentale, se durante quelle 6-7 ore di volo questa persona sviluppa la febbre, quindi a questo punto bisognerebbe controllare la febbre di coloro che arrivano da queste località. Ora, questa è un'ulteriore metodica di controllo e di screening che è stata per il momento non considerata necessaria perché si considera utile e necessario lo screening in partenza e non aggiungerebbe molto. Tuttavia, con un'ulteriore misura di controllo e di prudenza si sta andrebbe discutendo fatto. Anche di questa possibilità. Secondo lei andrebbe fatto? Cioè, perché Della Bartola ci ha detto in Congo, da Kinshasa non l'hanno controllata, una collega sì ma lei no, a Bruxelles a Parigi non l'hanno controllata, cioè di fatto è arrivata da una zona dove Ebola c'è in Italia e non c'è stato nessun controllo. Certo, questo è un punto importante, direi però un'altra cosa anche molto importante, che coloro che ritornano da questi paesi o che vanno, anche in casi di coloro che vanno per cooperazione, quindi o anche per lavoro, bisogna appunto provvedere a dare a queste persone una accuratissima informazione e dirgli anche che se tornano da questi paesi, non hanno avuto particolari sintomi, ma sono stati in zone affette e dopo qualche giorno sviluppano febbre o appena sintomi sospetti, succede, certo. Appena succede devono rivolgersi immediatamente a un servizio sanitario e dire subito che vengono da quelle zone, perché poi c'è un problema, guardi, che vorrei aggiungere, lei è molto sensibile a tutte le tematiche di discriminazioni eccetera, che spesso questi pazienti, anche quando sono guariti nei paesi affetti, sono poi discriminati, sono considerati una specie di untori, quando invece, voglio dire, non bisognerebbe fare questo. Quindi c'è anche una certa resistenza da parte delle persone, come è successo a Duncan, a quella persona morta americana che è morta ieri, che erano un po' riluttanti a dichiarare la condizione, il fatto che venivano da questi posti. Addirittura questa persona, che ricordiamo è morta, all'inizio si diceva rischia l'incriminazione perché ha mentito non dicendo che veniva da una zona a rischio, veniva dalla Liberia, esatto, che è il paese forse più a rischio da questo punto di vista. Ma tra l'altro, dopo la pubblicità, avremo ospite anche Saverio Bellizzi, che è epidemiologo dei Medici Senza Frontiere, che ha lavorato in Guinea, ha lavorato in Liberia. Anzi, è già ai nostri microfoni, chiedo un attimo di pazienza. Buongiorno Bellizzi, intanto la saluto. Dobbiamo andare però in pubblicità, sono anche tantissime le domande che arrivano, ripeto, c'è chi ci chiede dove è nato il virus, c'è chi ci chiede il vaccino esiste, c'è chi ci chiede può mutare. Cercheremo di rispondere a tutte queste domande, ovviamente non tutte, non è facile, ma chiaramente l'attenzione su questa tematica c'è da parte di molti molti italiani, comprensibilmente. Dopo la pubblicità state con noi. 24 mattino. Sono le 8:36 minuti, stiamo parlando di Ebola, siamo con Roberto Bertolini dell'OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità presso l'Unione Europea, con noi c'è anche Lucia Della Bartola della Onlus Non Basta Un Sorriso, che ci ha raccontato che è rientrata dal Congo via Parigi, non ha avuto alcun tipo di controlli, e Saverio Bellizzi, epidemiologo dei Medici Senza Frontiere, ancora buongiorno Bellizzi, lei è ritornato dall'Africa da pochi giorni, da poco tempo, so che è stato in Guinea, so che è stato in Liberia. mi pare di capire, Bellizzi, che in Liberia la situazione è peggiore dell'Africa, no? Sì, attualmente, buongiorno a tutti prima di tutto. Dunque, in Liberia sì, la situazione è la peggiore, seguita subito dopo la Sierra Leone. Guinea è leggermente migliore, però in generale i tre paesi del West Africa c'è una situazione catastrofica. Catastrofica. Senta, molte ci chiedono l'origine, per come l'ho capita io leggendo, ma sono un emerito ignorante, mi pare di capire che tutto è partito da pipistrelli che hanno passato il virus ad animali, scimpanzé, gorilla, topi, da qui all'uomo. Questa è un po' in estrema sintesi la storia del virus Ebola? Sì, in estrema sintesi sì, i pipistrelli, alcuni tipi di pipistrelli che sono nella zona tropicale africana, fungono da carrier, trasportano il virus senza manifestare malattia, e nel momento in cui vengono in contatto con l'uomo o con le scimmie antropomorfe causano la malattia. Ovviamente, come sa, le domande sono tante. Sentiamo qualche ascoltatore. Anna Maria ci chiama da Milano. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno, prima di tutto la ringrazio perché questo problema non è sollevato da nessuno, tutti stanno zitti per non creare allarmismi, invece la popolazione ce l'ha. Prima di tutto, io sono vecchia, chi se ne frega, crepo, ma abbiamo tutti nipoti, figli. Non dica così. No, ad ogni modo, io volevo dire questo, voi vi preoccupate degli aeroporti, e premetto, sì, non sono nazista, sì, questi poveri cristi che vengono li capisco, li accolgo, mm-hmm, ma questa gente che arriva sui barconi 2000 al giorno, quale controllo si fa? Beh, è una domanda che giro, non so, Bertolini vuole rispondere lei, il tema che è lanciato, sì, da molte, dire i migranti che arrivano anche da zone a rischio, possiamo stare tranquilli? Guardi, i migranti che arrivano, che vengono con i barconi dal Nord Africa, attraversano con viaggi lunghissimi appunto il deserto, arrivano via terra, quindi sono sicuramente, ci mettono sicuramente più di 20 giorni per arrivare praticamente sulle coste del Nord Africa. E quindi questo già è un primo elemento di assicurazione per le preoccupazioni della signora. Dopodiché i migranti che vengono intercettati dalle barche, dalla Marina Italiana, che vengono portati nei centri di raccolta, insomma, vengono tutti quanti visitati e quindi in qualche modo si controllano le loro condizioni generali, sì, e se hanno sintomi di qualche tipo vengono poi sottoposti alle misure necessarie del caso. Quindi direi che quella è al 99,9% non una modalità attraverso la quale possono essere importati casi di Ebola. Allora, questa è la risposta. Vorrei, Bellizzi, capire invece quello che è successo in Nigeria, perché lei in un'intervista, credo oggi su Repubblica, ha detto: guardate che si può circoscrivere Ebola, cioè ci sono dei protocolli, e la Nigeria è un caso nel quale questo ha funzionato. Che cosa e quali sono invece gli errori da non compiere nei confronti di Ebola? Sì, esattamente. In un contesto tra virgolette normale di Ebola, quello che bisogna fare immediatamente ogni volta che si ha un caso è rintracciare tutte le persone che sono state in stretto contatto con un caso e seguirle per un tempo massimo di 21 giorni, che è il tempo massimo di incubazione, e nel momento in cui sviluppino dei sintomi testarle e, se positive, trattarle. E questo fa in modo di isolare queste persone dal contatto con altre persone, quindi dal prevenire la propagazione dell'epidemia. Quello che in Liberia, mi sembra di capire, ormai è sfuggito dal controllo, cioè non si riesce più a capire. Sì, quello che è sfuggito in Guinea dall'inizio e pian piano dappertutto, mentre in Nigeria, con il primo caso che è stato isolato, subito sono state messe in azione questo tipo di dinamiche. Sa che molti ci chiedono del vaccino. Esiste un vaccino? Ci si può vaccinare contro l'Ebola? Al momento no. Sono in via, in atto delle sperimentazioni. Non so nemmeno a che livello siano in atto, però siamo ancora in fase molto molto precoce. E quindi cosa succede? Cioè, nei confronti di Ebola, quant'è la mortalità? Credo un tasso molto alto, il 50% addirittura? Ma normalmente questo tipo di sierotipo, lo Zaire, dà fino all'80-90%, però adesso, vedendo le statistiche fino ad ora, si è attestato al 50-60%. Cioè 50-60% di possibilità di salvarsi se si contrae l'Ebola? Beh, salvarsi 40-50%. 40-50%, quindi 50-60% è il rischio di morte. Vorrei sentire Riccardo, ci chiama da Padova. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io volevo comunicare la mia esperienza, ed è abbastanza terrorizzante. Nel momento in cui scoppiò a suo tempo la suina a New York, sì, io ero là con mio padre. Andai in pronto soccorso appena tornato, perché mio padre aveva un po' di raucedine. Ecco, lui l'hanno messo subito negli infettivi senza quel munirsi di verificare se aveva effettivamente tutti i sintomi della suina. Al contrario, a New York aveva avuto tutti i sintomi della suina, solo che i medici di New York avevano fatto gli esami e non mi avevano assolutamente messo in isolamento e hanno fatto una diagnosi corretta. Ecco, mio padre si è fatto 3 giorni in isolamento. Senza niente. Non crede che debba valere il principio di precauzione in questi casi? Ma scusi, ma se io ho la raucedine e non era un sintomo della suina, perché cavolo doveva essere messo in isolamento? Mi scusi, sono terrorizzato da questa situazione. Perché cioè lei è terrorizzato al contrario, che si facciano troppo allarmismo, no, troppi controlli. No, non sono terrorizzato di questo, sono terrorizzato che quando entra una persona in ospedale e ha i sintomi, allora va verificata, altrimenti no, perché le dico, se in quel momento mio papà è andato dentro in isolamento solamente perché ha detto che veniva da New York, non perché aveva i sintomi. Ma è andato in isolamento, scusi, dove? È venuto da New York e in Italia? Lui è andato in un pronto soccorso nel paese dove vivo. È stato dopo trasferito all'ospedale di Padova. Ah, ecco, okay. Questo è il discorso. Noi venivamo da New York nel momento in cui hanno detto Riccardo, lui viene da New York, mi dispiace, cioè intanto sono contento perché era evidentemente una semplice raucedine, però forse il principio di precauzione, vorrei chiederlo, non so se ha un commento su questo, ma Lucia Della Bartola, visto che abbiamo raccontato la sua esperienza, qui l'ascoltatore ci dice addirittura che è stata allucinante la vicenda di suo padre messo 3 giorni in isolamento per rischio suina, cioè, vede che in realtà c'è chi si lamenta anche del rischio di troppi controlli, di troppa precauzione. Lei che... Assolutamente, io sono per la prevenzione, quindi ben vengono i controlli, ben vengono anche i 3 giorni di isolamento se servono a interrompere il virus, quello assolutamente, anche se non ce l'aveva, mi dispiace per lui, poverino, però. Senta, ma lei e il suo compagno tornerete in Congo? Cioè, assolutamente sì, io sto preparando il prossimo viaggio. E tornate con serenità, voglio dire. Sì, ma lì le dico, non c'è il terrore che c'è in Europa, non ci sono gli stessi problemi che sono in Nigeria, Guinea, è molto più soft la situazione, perché appunto è in una regione specifica ed è stata chiusa. Auspicherebbe magari maggiori controlli la prossima volta anche. Quello sicuramente, ma negli aeroporti europei di snodo, ma per qualunque malattia del genere, quello assolutamente, che sia Ebola o qualunque altra cosa simile. Sentiamo Giancarlo, ci chiama da Salerno. Buongiorno Giancarlo. No. Complimenti per la trasmissione innanzitutto. Grazie, dica Giancarlo. Allora, la domanda che mi ponevo è questa: si sta parlando di ISIS e di Ebola in questi giorni. Non potrebbe intensificare i controlli perché probabilmente potrebbe essere un'arma nelle mani di queste persone, l'Ebola. Qui però diciamo è il bioterrorismo, è anche una discussione, c'è il rischio di bioterrorismo. Diciamo che potrebbe essere intensificare i controlli proprio per questo. Sì. Le persone che sono scese in Francia alla fine non sono state nemmeno controllate. Sì, questa questione, Giancarlo, girerei a Bertolini, anche se entra in un discorso un po' più ampio, anche diverso, apre un ulteriore fronte. Bertolini, per concludere, non so. Guardi, io penso che è chiaro, questa è una dimensione assolutamente non presente, per fortuna, in questo momento. Insomma, direi che i controlli che vengono effettuati per diciamo, proteggere la popolazione dal contagio in senso generale in questo momento agiscono per tutte le potenziali cause, ovviamente. Poi è certo che se uno usa questo tipo di infezione come arma di bioterrorismo il discorso cambia completamente, e mi auguro che questo non sia neanche considerato come ipotesi. Comunque volevo dire una cosa, Milan, a complemento della una cosa detta precedentemente per quanto riguarda il vaccino, che mi pare importante. I vaccini sono 2, sono in sperimentazione adesso piuttosto avanzata, dovrebbe concludersi la sperimentazione verso il mese di novembre, probabilmente verso la fine di novembre, e quindi è possibile che alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, siano disponibili le prime dosi di vaccino probabilmente da somministrare inizialmente agli operatori sanitari per cercare di aiutarli a proteggersi dal contagio e da quelli che si occupano del trattamento dei deceduti. Allora, ovviamente staremo a vedere e teniamo alta l'attenzione su questo argomento. Intanto vi ringrazio Roberto Bertolini dell'OMS presso l'Unione Europea, Lucia Della Bartola della Fondazione Non Basta un Sorriso, Onlus, e Saverio Bellizzi, epidemiologo di Medici Senza Frontiere. Grazie per essere stati con noi davvero. Dopo il traffico, ed è già con noi il parliamo di politica, dopo quello che è successo ieri, il gran casino al Senato, possiamo definirlo così. Vito Petrocelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, un attimo di pazienza, c'è il traffico e poi ci racconta che ha combinato anche lei, che è stato espulso da Grasso dal Senato. Allora, per favore, allora possiamo continuare. Allora, per favore assistenti, ordino l'espulsione dall'aula del capogruppo Petrocelli. Eccolo qui, il momento dell'espulsione. Petrocelli, eccoci qua, senatore. Questo è il momento in cui lei è stato cacciato. Ma che ha combinato? È andato a dare 30 centesimi a Grasso? No, assolutamente. In quel momento io stavo sventolando un foglio bianco, uno dei fogli che sono sui banchi del Senato. Il gesto era simbolico, insieme a me lo stavano facendo anche altri colleghi. Volevamo simboleggiare la delega in bianco. Sì, cioè la legge delega senza i contenuti, diciamo. Perché poi i contenuti finiranno nei decreti attuativi, in questo caso i decreti delegati, e di questi contenuti non avremo più alcun controllo come Parlamento. E in quel momento il presidente Grasso mi ha espulso. Sì, però c'è una fotografia, scusi, io l'ho vista oggi su Repubblica, una fotografia di lei che porge una moneta sul banco della presidenza, o no? Me la so... No, non era il banco della presidenza, no. era il ministro Poletti. Quasi 10 minuti prima, e mi ero avvicinato al ministro Poletti, anche quello un gesto simbolico, con 30 centesimi. Perché 30 con quei 30 centesimi lasciati lì sul banco, non assolutamente tirati addosso. Appoggiati sul banco, consegnati il messaggio dato lì in diretta al ministro: con questi 30 centesimi prova a cominciare a pagare i diritti che non avranno nemmeno i miei figli. E le tutele che non avranno nel prossimo. Senta, ma ecco, quello che è successo ieri, diciamolo francamente, voi e anche la Lega, insomma, quello che è successo, volevate anche impedire che l'approvazione avvenisse prima che Renzi stringesse la mano ad Angela Merkel? Perché lo sapevate anche voi che prima o poi ci sarebbe stata la fiducia, c'è stata di notte. Volevate però impedire che succedesse tutto entro il pomeriggio? Noi volevamo inizialmente soltanto poter esaminare il nuovo testo portato dal governo, consegnato all'ultimo momento, e avevamo chiesto 4 ore per poterlo vedere e poter dare poi una fiducia o una non fiducia a ragion veduta. Non ce l'hanno concesso e francamente secondo me il presidente Grasso si è tolto qualche sassolino dalla scarpa con quel gesto, che è veramente un precedente. Non si manda fuori dall'aula un capogruppo. Probabilmente è un momento di nervosismo del presidente, che non riesce a tollerare quando diciamo che effettivamente lui non ha la gestione dell'aula, è il vero presidente del Senato. Però sa qual è il paradosso, Petrocelli? Che dicono che Renzi sia un po' arrabbiato con Grasso proprio perché non è riuscito a tenere la situazione, a far approvare tutto entro il pomeriggio. Voi siete arrabbiati con Grasso, la Lega è arrabbiata con Grasso perché dite che non è in grado di tenere, di rispettare insomma le opposizioni. E come è possibile questa cosa? Io non ce lo vedo il paradosso. Effettivamente il Presidente del Consiglio non fa che avvalorare quello che noi riteniamo da tempo, che il vero Presidente del Senato non è lui, è Zanda. E allora non appena la linea Zanda non passa per pochi millimetri, allora si offende anche il Presidente del Consiglio. E quello che noi contestiamo è la gestione un po' allegra del regolamento da parte di Grasso. L'ha fatto durante la discussione della riforma costituzionale, l'ha rifatto ieri con una grande leggerezza. Poi dopo è successo dell'altro, noi non c'eravamo, non siamo stati coinvolti, però guarda caso le misure poi più dure e drastiche Grasso le prende sempre con i 5 Stelle. Dopo c'è stato anche lanci di libri, è vero che è volato anche un iPad, tanto lo paghiamo noi contribuenti? No, io non l'ho visto, io ho visto soltanto il regolamento del Senato strappato poi dai colleghi della Lega, ma i colleghi della Lega sono intoccabili. Lanciato da Gianmarco Centinaio, l'ha messo, ha lanciato il regolamento a Grasso. Cioè lei dice ce l'ha con voi, espelle solo voi. Senta, ma quei 30 centesimi non è che erano, simboleggiavano i 30 denari, un po' come per dare del Giuda? Ma certo non era una cifra casuale. Cioè Poletti è un Giuda. Ma farsi pilotare dal senatore Sacconi nella gestione di una riforma del lavoro da parte del Partito Democratico non mi pare proprio una posizione di coerenza rispetto alla storia che hanno. E su questo io non ho assolutamente dubbi. E quindi è questo, cioè il fatto, vabbè, ma perché farsi pilotare? Voglio dire, Sacconi ha approvato, è di Nuovo Centrodestra, il Nuovo Centrodestra fa parte del governo. Ma è Sacconi. E che sei? Non è certo una persona che è di riferimento per la tradizione del Partito Democratico di tutte le sue anime. No, ma certo, che vuol dire è Sacconi? No, Sacconi è un ex ministro del lavoro ed è del Nuovo Centrodestra. Il Nuovo Centrodestra fa parte del governo, quindi voglio dire, l'iniziativa è di Sacconi. L'iniziativa è di Sacconi in quanto presidente della Commissione Lavoro. Ma seguire pedissequamente la visione che ha Sacconi, che è una visione che c'ha da tempo, che non è sicuramente la visione né storica né attuale del Partito Democratico sulla riforma del lavoro, sulla tutela dei lavoratori. Anche sulle misure che dovevano essere prese e si potevano prendere in questa delega, le avevamo proposte in commissione, dal mio punto di vista non è sicuramente un atteggiamento da Partito Democratico. Poi con tutti loro ci stanno in maggioranza un Nuovo Centrodestra. Comunque il punto politico che voi contestavate è questa legge delega. La legge delega vuol dire, ricordiamo l'ascoltatore, che stabilisce delle cornici entro le quali poi ora con i decreti attuativi quella legge va riempita di contenuti. È questo insomma che vi a fastidio, non si fa una riforma del lavoro con una legge delega. E soprattutto non si fa una legge delega che dovrebbe uscire come testo definitivo dal Parlamento, in questo caso dal Senato e quindi anche dalla Commissione Lavoro, e non il contrario, perché il testo definitivo all'ultimo momento l'ha consegnato il governo. Senta, per concludere, Petrocelli, per concludere, sa che Renzi dice sì a proposito dei dissidenti del PD, sono una bella pubblicità progresso per il mio governo, cioè più contestano, e ha detto sceneggiate. Lei ha fatto una sceneggiata ieri? No, io non ho fatto una sceneggiata, è il presidente Renzi che fa sceneggiate in Europa. Vado a continuare a farlo. E perché? Però un po' di sceneggiata ieri c'è stata, insomma, i lanci, i casini, urla, spintoni, pare uno schiaffone se l'è preso dalla Petris, una senatrice del PD. Su questo davvero non è successo nulla nel momento in cui io non ho accettato di essere espulso dall'aula, fino a quando i miei colleghi mi hanno mantenuto lì in aula. Ma chi è che l'ha convinta poi a uscire? Chi è che l'ha convinta a uscire? Perché lei non voleva uscire all'inizio. La seduta si è chiusa, io sono uscito a... Ma all'inizio ha detto mi portate via forza, poi è uscito. Sì, perché l'ordine di Grasso era di portarmi via a forza. Poi c'è stato un compromesso tra Grasso e il vicepresidente Calderoli, hanno deciso di chiudere la seduta. E allora, nel momento in cui la seduta è chiusa, io sono uscito. Va bene, la ringrazio Petrocelli, grazie per essere stato con noi. Senatore Vito Petrocelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Con lei concludiamo questa puntata. Ringrazio Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, anche Alessandro Marco Tulli oggi ha lavorato con noi, e Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè in regia. Da tutti quanti a domani, 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 mattino.